Benvenuti, benvenuti in questo secondo episodio del mio salotto. Anche stasera siamo io, Jacopo e Andrea. E non ci sono altri ospiti tranne questi due babbuini, che purtroppo mi sono portato anche nel logo, come avete visto. E stasera parliamo di un film che si chiama Upgrade. E è un film del 2018. Non so se Jacopo vuol fare uno scheletrino. Oppure faccio io. Uno scheletrino. Fai tu, vai. 2018. Del 2018, no, sì, è recente. Ah, non lo sapevo. Però è perché, allora, io l'ho visto qualche tempo fa, forse Jacopo l'ha rivisto tipo 12 volte negli ultimi 2 mesi. E... No, io l'ho visto solo quando te l'ho mandato. Ah, ok. E invece Andrea l'ha visto molto di recente. In effetti, guardandolo, non sembra un film recente. Probabilmente questa cosa è voluta, cioè loro hanno voluto ricreare l'atmosfera e il film di un film fantascientifico anni 80. Comunque, allora, comincio dicendo che è un film di fantascienza, è un film che potrebbe anche essere considerato un thriller, forse, un film d'azione. E, appunto è un film del 2018, è stato prodotto in Australia. Il produttore è un produttore molto famoso perché è Jason Blum e tra l'altro dico già che il film è andato molto bene e lui parlava di sequel. Io lo dico, la butto lì. Oh mio Dio. Okay. Il regista si chiama Lei Van Wannel, che anche lui in realtà è un regista molto famoso, soprattutto di film horror, perché ha sceneggiato, soprattutto come produttore, e sceneggiatore, ha fatto sceneggiatura di Saw, Insidious, e Insidious, e quindi insomma soprattutto in film horror è molto molto molto molto molto competente. E, il protagonista è il clone di Tom Hardy. No, però davvero, cioè sembrano proprio separati alla nascita. Esatto, che è un tale di nome Logan Marshall Green. E, è quello che ha fatto Shocker in Spider-Man, tra l'altro. Esattamente. E ha fatto un po' di film in realtà, però ecco, credo che il protagonista abbia fatto solo qui. Non lo so. No, ha fatto anche un altro film molto bello, che si chiama tipo The Invitation, una cosa del genere. Ah, un okay. Altro cult che vi, poi vi non, trovo. Non importa, sarà sempre comunque ricordato per essere il sosia di Tom Hardy. È uguale. Verissimo. E dopodiché ci sono alcuni comprimari, tipo c'è un certo, non so, Harrison Gilberstone, però che ha fatto un po' di ruoli da caratterista, però insomma gli altri attori non mi paiono abbastanza famosi, non sono non sono del calibro di Tom Hardy, esatto, sicuramente. che cazzo hai detto, niente. Allora, praticamente questo si pone come un film di fantascienza non troppo avanti nel futuro, in cui l'intelligenza artificiale ha raggiunto uno stadio che è vicino alla singolarità, quindi diciamo, è quasi un'intelligenza artificiale completa, e il protagonista subisce un trauma e non riesce più rimane paralizzato. E insomma, il cuore del film è il fatto che viene messa un'intelligenza artificiale per mediare dagli stimoli del suo cervello agli stimoli al controllo degli arti. In questo caso, l'intelligenza artificiale serve per muovere il suo corpo. Certo, con un cippino stile anni 80 proprio, cioè nero con le cose di metallo, Esattamente, stile esatto. proprio. La particolarità di questo film è che, secondo me, volutamente fa in modo che l'atmosfera, la sceneggiatura, eccetera, sia un po' di un fantascientifico cult, assomiglia un po' a Blade Runner il primo, e comunque sembra un po', secondo me si pone un po' apposta come un film di serie B, quindi non punta molto sugli effetti speciali, e in questo modo credo che il significato di film di fantascienza, quindi la denuncia sociale, viene posta soprattutto sul ruolo dell'intelligenza artificiale senza aggiungere effetti speciali che magari distolgono l'attenzione del... Poi questo è come l'ho letto io, magari è una Però in vaccata. realtà sono fatti bene. No, però adesso diciamo, vabbè, tutto quello che ha detto Salla finora è giusto, va bene, però ora vi dico cosa ho detto a Salla per convincerlo a guardare il Invogliarmi film, a che è più esatta, una descrizione più esatta del film. È Supercar, dove la macchina Kit è il corpo di questo qui, cioè c'è lui che parla a questi A e gli dice tipo cosa fare, cosa non fare, e si vede proprio che è completamente scollegata la testa dal resto del corpo. È come guardare veramente David Hasselhoff che, che faccia di aspetta, parla con. però David Hasselhoff è il chip e Tom Hardy è la macchina. È quello che hai detto tu. No, è David Hasselhoff è la testa e la macchina è il resto. Cioè, è un po' difficile, sì, però questo è quello che ho detto e ha fatto Favide, no? Cioè. Sì, e poi c'ha molte Ho scene di detto anche un'altra scena, azione. esatto, anche Sì, molte scene azioni fatte bene, sì. Sì, è quasi al sì. limite Tutorial. di un film più, come si chiama? Un film un po' splatter, perché insomma le scene d'azione sono un po' spinte, spesso anche troppo, a mio parere. Sì, ce n'è Però una in insomma, particolare che mi ha fatto impressione. ma è quella del trailer, forse. Non posso dirlo. Ok. E comunque sia, allora, è un film che personalmente a me è piaciuto molto, probabilmente anche a Jacopo da come ne parla. Non so Andrea che ha visto oggi. Per il momento, sì. Ah, perché Andrea ovviamente non l'ha finito, come nelle migliori. Questa cosa diventerà cult perché c'era già Io stato che per non finisco a Infinity War, vedere esatto. E film. visto che Ok. Andrea non l'ha finita, cogliamo l'occasione per non rivelare il finale, ma possiamo chiedere ad Andrea come pensa che finisca. Ma non mi sembra sto tramone per il momento, cioè. Come per parecchi film sembra. Posso dirlo? Sì, puoi dirlo. Sembra il solito, ok, subisco l'incidente. In realtà è stato tutto tramato dal tizio che ti ha impiantato il coso, perché il chip per provarlo. Però non lo so, cioè, però sembra che vada così, insomma. Però come finisce il film per Andrea? Cioè, questo hai fatto, diciamo, un po' di speculazioni sul Speculazioni. perché, esatto. Però come finisce? Boh, non lo so. Cioè, un finale. Cioè, spero che appunto si ripiglia un po'. Cioè, si mette qualcosa di inaspettato. Ah, quindi Non lo secondo te so. comunque. Magari che lui riesce nel suo intento, cioè di trovare giustizia, non so, forse. Beh, In quell'ambito lì. interessante. Però ti consiglio di Interessante, finire il Andrea. film perché, insomma, merita. Ok. Allora, io adesso vado a recuperare quello che avevo scritto a Jacopo quando l'ho visto, di critiche meno costruttive. Intanto, se voi volete dire qualcosa sul film, vado a Beh, cercare che un. dire, le teste dei nemici esplodono, gente muore con uno starnuto, scusate lo spoiler, Ah, e ok. non c'è niente di meglio. Cioè, ho visto questo film perché, diciamo, l'ho sentito citare in un altro podcast di cinema, che qui non riferirò perché non voglio concorrenza, però, cioè, era passato quasi come un consiglio di sottofondo e per questo mi aveva catturato, perché sì, ho visto Upgrade, film bellissimo, serie B, fantascienza, e siccome, cioè, gli ultimi film che ho visto di serie B, tra virgolette, ultimamente mi sono piaciuti abbastanza, ho detto, cavolo, un altro così ci sta. E quando l'ho visto ho detto, questo è un film da consigliare a sala, è talmente bello e brutto, cioè è un brutto fatto bene. Ok. Comunque sì, allora non è un film proprio B-movie, cioè o meglio, è un B-movie nel senso che loro hanno voluto dargli quel taglio lì di come effetti speciali e scenografie, ma in realtà comunque, ripeto, è costato tra i 3 e i 5 milioni di dollari, quindi insomma è abbastanza costoso. Però il film paradossalmente è andato molto bene, cioè la critica ha valutato come un film bello, è piaciuto anche a me. Allora, le critiche che avevo detto a Jacopo sono. E, prima di tutto, quello dello starnuto è imbarazzante. In secondo luogo, avevo scritto: perché mai una persona normale desidererebbe mettersi un'intera arma in un avambraccio? Cioè, non è Beh, fottutamente scomoda. E lì ho risposto a Salla, metti che stai, ti stai, diciamo, grattando e ti parte un colpo. Cioè, tra È tutte le cose che puoi un'esperienza. fare, perché proprio una pistola intera nell'avambraccio? E poi un'altra domanda tecnica è: perché lui fa rumore tipo di androide quando si muove? E lì ho risposto che è l'attore che fa il rumore con la bocca, Ok. perché è l'unica spiegazione possibile. Cioè, di fatto lui non ha cose, non è un cyborg, nel senso che ha semplicemente un chip che lo aiuta a muoversi, cioè che muove, anzi, che muove i muscoli per lui. Però non ha un qualcosa che fa il No, io non l'ho notata fin, cioè, per il momento questa cosa. scusa, Perché vedi, sa, la cosa naturale per come si muove. inizia dopo un po' a No, fare. no, subito quando lui si attiva, che si rialza senza muovere le gambe, che anche quello vorrei vedere come gliel'ha fatto fare. Ah, Quando ok, no, non ci avevo fatto quando si caso. rialza dai talloni, fa tipo bzzz, No, davvero? eh sì, eh. Ma io non ci ho fatto caso, No, boh, vabbè. devi finire di guardarlo. No, ma è come quando gli attori su Star Wars fanno un rumore delle spalle laser con la bocca, capito? Cioè, nell'eccitazione. Ok. Piu, piu, piu. Però lui secondo me è davvero bravo a darti l'idea che non è lui a muovere il corpo, muove solo la testa. Sì, Davvero, no, cioè. è veramente fatta bene quella parte, infatti sì. Perché Quindi Andrea finisce di guardarlo. cioè lui veramente muove la testa indipendentemente da come muove il corpo. È fantastico. Bah, allora, diciamo che cioè, rivolto a tutti i film recenti di fantascienza che ho visto, che non sono tante, o anche serie TV, devo dire che questo non è male, perché secondo me rispecchia il tipo di fantascienza che mi piace, cioè che non è basato solo troppo sull'azione, ma c'è anche un significato, cioè c'è anche insomma, una fantascienza col cuore. Ok, da me non, detto da me non è molto credibile. Non è molto credibile, effettivamente. No, cioè, nel senso, è come, per esempio, prendo come esempio Westworld, che alla fine, secondo me, è una buona serie TV di fantascienza. La storia che c'è dietro è più un quadro, cioè più una scusa, un espediente per mostrare, per parlare dell'intelligenza artificiale, della coscienza. E questo è simile. Però forse. Madonna, quanto sei serio per questi film, cioè. Vabbè, allora vuoi che parli di Moore che uccide il tizio col coltello, No, vabbè, hai ragione, tagliandogli già in c'ha un due sacco il cranio? Vuoi parlare di di un tizio che starnutisce nanomacchine che uccidono le persone? No, dai, è fatto bene, no, hai ragione. Non posso cazzeggiare troppo su questo film. Cioè, c'è un po' di storia su. Non so se. Perché, per esempio. A me piace anche leggere la fantascienza e in particolare mi piacciono i libri di Dick. E Dick è famoso per due motivi. Uno per il twistone che fa sempre, cioè che spesso cerca lo straniamento, e l'altro è che comunque lui riesce a mandare un messaggio nei suoi libri. E secondo me questo è quello che dovrebbe fare la fantascienza. Poi ovviamente Sì, puoi c'era. guardare. Sì, scusami, vai. No, dicevo, ovviamente puoi guardare questo film e anche guardare come quando guardi un Fast and Furious e dici, ok, è figo, ha delle scene d'azione fighe. Però ecco, forse secondo me da questo punto di vista perde un po' perché ci sono milioni di film d'azione più belli di questo. Sì, comunque lo puoi guardare per il divertimento, cioè è fatto, secondo me è girato molto bene anche nell'azione, nonostante il budget più basso raggiunge molti film che costano il triplo o il decuplo. Però come dici tu, la fantascienza è buona quando, diciamo, esagera un concetto, una realtà alternativa per esprimere un'idea, una domanda. Una denuncia sociale, qualcosa, e questo lo fa come lo fanno molti film di serie B ultimamente. Questo per essere, diciamo, seri. E sì, comunque, adesso come hai detto, coscienza su Westworld mi ha fatto venire in mente che in tutta coscienza ho rivisto Age of Ultron e non era brutto come mi ricordava Andrea. Quindi mi perdoni per Bravo, quello che ho detto ieri bravo. l'altro giorno. Cioè, ti sei Un ubriacato bacino e hai per te. visto. ti sei ubriacato era... di Stage of Ultron e hai detto che è bello. Ho detto non era tutto come, quanto mi ricordavo, quindi magari è più brutto, che ne sai, Sal? Potrebbe essere più brutto. No, no, è... sono alcune scene sta che... Sta per dire carino, no. Sta per dire carino, attenzione. A proposito di Age of Ultron, vuoi cominciare anche a dire qualcosa su l'ultimo Avengers, Jacopo? L'ultimo Avengers? Allora, ok, vogliamo provare a fare questa rubrica. Cioè, alla fine di ogni episodio, o quasi ogni episodio, dipende un po' dalle uscite, avevo in mente di fare una scommessa, molto semplice, del tipo, che ne so, fra una settimana appunto esce il film Avengers Endgame, forse, perché si pensa che il titolo non sia quello vero in realtà, e faremo una scommessa tipo, per quanti minuti ci sarà sulla scena la barba di Chris Evans, di Patatone Evans? Vabbè, che ne sai, magari se tagliano il film, alla fine di Capitan Marvel ce l'aveva ancora. Bellissimo. Si può sempre sperare che le scene con la barba siano quelle vere. No, in questo caso sarà, per esempio, quanti milioni nella prima, in questa puntata sarà quanti milioni di dollari incasserà Avengers Endgame nella prima settimana. Quindi noi, cioè, uscirà il 24. Cioè, no, nel primo weekend o nella prima settimana? Nella prima settimana, cioè noi, è una settimana, esattamente una settimana dopo che è uscito, quindi esce il 24, il primo maggio, controlleremo gli incassi. Cioè, quanto sarà il totale di questi incassi, insomma, su Box Office Mojo? Guardando gli incassi di Avengers Infinity War dopo la prima settimana, abbiamo visto che erano circa 256 milioni. Adesso controlliamo. No, Avengers Infinity War mi sa che ne ha top 5 dei weekend. No, dico dopo la prima settimana. Secondo me ne ha fatto tipo 600 milioni. No, era 257. 698, solo in America questo, sto dicendo solo in America. Ah, ok. Quindi, adesso controllo perché magari... Qua, non so se è attendibile, su Wikipedia c'è scritto globalmente il film ha esordito con 640,5 milioni di dollari nei primi 5 giorni. Esatto, 640 milioni, sì. Ok, questo però in totale, non solamente l'America. No, globalmente. Globale. Diciamo. Vabbè, insomma, vedremo. Adesso diamo magari due numeri perché non sappiamo quali dati avremo disponibili dopo una settimana, quindi magari possiamo dare due numeri. Come funziona? Che noi adesso diciamo dei numeri, un numero a testa. Chi vince è quello che si avvicina di più, ovviamente. Ci saranno punti bonus dati da Salla, quindi sarà giudice molto imparziale e finale. Cioè, giudico e partecipo, che rende bene l'idea. E sono la persona più imparziale. Esattamente. Su scommesse che verranno beccate precisamente, oppure che saranno talmente assurde e improbabili che appunto vincerle ti garantisce punti da Salla. Tipo se dicessi un flop e farà 2 milioni. Esatto. Quindi allora, io ho la mia cifra, se ce l'avete anche voi possiamo cosa facciamo? Dirla e... ci facciamo carta sasso facciamo fuori. così esatto, questa volta farà prima Salla, poi Andrea, poi io, poi la prossima volta farà prima Andrea, poi io, poi Salla, insomma facciamo che ogni settimana scaliamo chi inizia per primo a dirla la cifra o la risposta. Quello globale o americano? Puoi dire entrambi, come ti pare? Secondo me quello globale è 1 miliardo. Dopo una settimana? Sì. Cazzo, vai proprio per la... Porca troia, ok. Io dico 850. Milioni. 850 milioni. Ok. Miliardi. Miliardi. Ok. No, io dico 700. So, cioè, che conservatori di merda. Mm-hmm. Va bene, dai. Quindi questo totale, globale, ok. E quindi noi quando lo sapremo vi diremo la risposta. Adesso sì. Questa è la prima scommessa, la chiudiamo e a posto. Va bene, In futuro magari faremo anche partecipazioni, eccetera, quali. sì, Team Salla, Team sì, Civil War. Che Allora, niente, no, vabbè, tornando a Upgrade, secondo me, appunto, è un film che io consiglio, è un film che consiglio di guardare a chi piacciono i film d'azione, è un film che non consiglio per tutti coloro a cui non piace lo splatter, perché secondo me, appunto, le scene d'azione, di violenza, sono molto spinte, forse troppo. E a me piacciono gli splatter, però se sono, diciamo, classificati come tali, non se un film vuole fare un film splatter, per me non c'è alcun problema, ma se un film vuole fare un po' un mischione, preferisco che faccia un po' di fantascienza, un po' d'azione, ma metta meno mandibole squartate, o meglio, ci può essere la mandibola squartata, ma non far vedere mentre lui la squarta, che è una cosa un po' inquietante. E boh, non so poi se a voi invece non dà fastidio questa cosa. Ma a noi ci piacciono le mandibole squartate. Sì, cioè nel senso anche a me piace Machete quando gli apre lo stomaco e usa l'intestino come corda per calarsi al piano di sotto. Però quello è un film dichiaratamente splatter, non è. Cioè lui non vuol dire nient'altro, vuol dire questa cosa qua, vuole emulare i B-movie e fare un B-movie splatter. Invece questo qui, vabbè, boh, forse però ovviamente è solo personale. Ovviamente non lo consiglio a chi dà fastidio in generale questa cosa perché il film è veramente pieno di scene di violenza gratuite. Avete qualche commento, osservazione o... Diciamo che se qualcosa è gratuito, È bello. mi appello alla tua teschiaggine. No, no, per me ci stava, appunto per lo spirito anni 80, un po' gore, splatter, un po' ci sta. Sì, non è un po', è Perché molto. finché è violenza va bene, se c'era un po' di sesso ti dicevo di no, perché poi è brutto, capito? In Ah, America non va ok, bene. ci sta. È brutto perché la quota gnocca in questo film è molto sottotono e io sono sensibile a questa cosa. Mentre la quota gnocco un po' c'è, anche se lui in realtà rimane inquietante tutto il film, perché di fatto è molto bravo a muovere il corpo indipendentemente dalla testa, come se fosse una macchina. Vero. Beh, anche E... se, cioè, per il momento non lo so, però, cioè, nel senso, la moglie non è... Sì, ma dopo 10 minuti crepa. Spoiler. Spoiler nel trailer, non l'ho visto il trailer, che ne so. Va bene, se non avete altri commenti, altre osservazioni, direi che possiamo anche chiudere qui. Allora io. Va Va bene, bene. allora vi ringraziamo per aver seguito questo secondo episodio del mio salotto e ci vediamo la prossima settimana per un episodio che piacerà molto ad Andrea. Anzi, diventerà Ah, forse ecco. il suo episodio preferito e tratterà di una famosa saga di Stephen King. Va bene, ciao Ho a paura. tutti. Ciao ciao. Ciao. Ciao.